attenti, radioattenti, arriviamo al nocciolo. Cosa ti fa invece un cuoco un po' bestia se deve intervenire sul linguaggio delle cebadas, apportando quelle variazioni alle regole della buona cebada, col fine di ottenere qualcosa che non sia più una cebada, ma ricorda la cebada, e non è più né meglio né peggio di una cebada, ma è un'altra cosa altrettanto ben tenuta e autonoma e linguisticamente ricca e polivoca nei rimandi semantici, insomma, un'opera d'arte della cucina.